Radio 24 Reportage. Viaggio nel tunnel del Gottardo. Un prodigio della tecnica, una nuova chance per l'Europa e l'Italia. Di Andrea Ferro. Sono molto felice. Cosa significa per la Svizzera? È un progetto molto importante per l'economia, però anche per la gente. Siamo tanto fiero. Tanto orgoglio? Orgoglio, sì. Siamo a quota 2300 metri di profondità. È veramente per noi è un grande chance per il futuro. Anche per l'Europa, per il traffico entro Rotterdam e Genova. Un tunnel che avvicina e non un muro che divide. Non è una barriera, anche epoca medievale non è veramente un barriere. Emozionata? Adesso sì, il momento è tre, molto molto emozionale. Solo gli svizzeri sanno fare così bene. Sì, è chiaro, naturalmente. Adesso, come si dice, in questo giorno siamo gli meglio. Si avvicinano le persone con questo tunnel. Sì, sì. Il sud e il nord siamo sono insieme adesso, sì. Voci e suoni dal cuore delle Alpi, su un treno che corre bucando a 200 all'ora la galleria più lunga del mondo, la galleria di base del Gottardo. Sentimenti ed orgoglio a scandire l'ennesima conquista, una vetta alpina capovolta. 2300 metri di profondità nel cuore della montagna, 57 km e 100 metri, 3 km in più del tunnel di Seikane in Giappone, quasi 7 rispetto a quello della Manica. Primati ottenuti in soli 17 anni di lavoro, quasi niente per un prodigio della tecnica e dell'ingegneria quale è questo. La decisione di costruire la galleria di base del Gottardo era stata certificata da un referendum. Per volontà popolare la Svizzera aveva deciso di investire quattrini, tanti, una montagna. Alla fine il tunnel è costato l'equivalente di circa 11 miliardi di euro, quanto fu speso per organizzare i Giochi Olimpici di Londra del 2012. Dopo l'inaugurazione in Svizzera la grande festa prosegue e proseguirà. Nel primo weekend i treni vanno e vengono, carichi di un popolo fiero, posti esauriti da tempo, danze, balli, musica, luci con i monti a fare da quinta imponente. I due portali di Rinecht a nord, Canton Uri, e Biasca a sud, Canton Ticino. Dopo centinaia e centinaia di transiti di prova e collaudi tecnici, dall'11 dicembre il tunnel più lungo al mondo sarà aperto al traffico regolare. Vi potranno circolare fino a 315 treni al giorno, quasi 3 su 4 trasporteranno merci, gli altri persone. Dal 2020 poi, con l'entrata in funzione della galleria di Monteceneri nel Canton Ticino, i tempi di percorrenza si abbatteranno ancora e tra Zurigo e Milano si viaggerà in 3 ore. Un'Europa che corre e accorcia le distanze, quando c'è poco distante un'altra Europa pronta a ripristinare i limiti e alzare barriere. Ma cosa significa per l'economia e la politica un tunnel del genere nel cuore di un continente tormentato dagli spettri del passato? Andreas Meyer è l'amministratore delegato delle Ferrovie Svizzere, lo abbiamo intervistato. Cambieranno le rotte mondiali del trasporto merci? Certamente il Gottardo è anche un simbolo, un wake up call per tutte le ditte ferroviarie per cooperare ancora meglio, soprattutto nel settore delle merci. Il principio del Gottardo è che abbiamo riservato delle tracce per la merce 4 su 6 all'inizio. Questo principio sarà anche introdotto a partire del 1 giulio di quest'anno in tutta la Svizzera, e abbiamo domandato al CEO Summit con i nostri amici delle ferrovie al nord e al sud di introdurre questo principio anche da loro. Come si fa a fare un'opera di questo genere in 17 anni? Per un italiano è impossibile crederci. Devo dire che tutto quello che abbiamo dovuto fare insieme, abbiamo fatto insieme. Naturalmente da noi, noi abbiamo tanti ingegneri che sono bravissimi, e tutta la Svizzera festeggerà anche un po' l'innovazione, la precisione e l'affidabilità della Svizzera intera. Un po' di incoraggiamento all'Italia che invece è in ritardo? Devo dire che con il nostro accordo dei castelli che abbiamo firmato 2011 abbiamo avuto veramente un bel programma di lavoro e abbiamo fatto tanti progressi. Allora io devo dire complimenti agli italiani, abbiamo veramente fatto una grande opera insieme. Parole di incoraggiamento per una sfida che l'Italia non può più permettersi di rimandare. La galleria di base del Gottardo è infatti il passaggio cruciale lungo il corridoio Reno-Alpi tra i porti del nord Europa, Rotterdam e Anversa e quelli di Genova e Savona. Una direttrice che interseca il polmone produttivo dell'Europa, dove si sfiora il 20% del PIL continentale. Significa che per rendere competitivi i nostri scali, il nostro sistema paese, occorre realizzare in fretta una serie di opere infrastrutturali indispensabili. Il terzo valico dei Giovi tra la pianura padana e il mare innanzitutto, ma anche raccordi, diramazioni, interporti, nuovi binari sui tratti a sud di Chiasso. In Italia quasi il 90% delle merci viaggia su gomma, neanche un decimo di questo corre su ferrovia. L'obiettivo è ridurre questa distanza abissale, la parola d'ordine è intermodalità. L'Unione Europea ha fissato traguardi ambiziosi in vista dei prossimi anni, di questo e altro a Lugano l'amministratore delegato di Ferrovie Renato Mazzoncini ha parlato con gli altri manager delle ferrovie dell'arco alpino. Le merci sono, direi, forse anche la ragione principale per cui viene realizzato a Gottardo. La sagoma 4 metri, che è la sagoma che consentirà al sistema merci di diventare veramente competitivo, sarà pronta nel 2020, quando appunto sarà pronto anche il Monte Ceneri, quando tutta l'infrastruttura sarà pronta ad accogliere i treni a 750 metri e con la sagoma 4 metri. È una grande sfida, il tempo sembra lungo ma in realtà arriva con una velocità incredibile. Le merci incominciano subito a circolare nel Gottardo, ma soprattutto alla fine del 2020 ci sarà questa grande opportunità di avere grandi treni merci che in maniera molto efficiente e quindi anche con bassi costi riusciranno ad attraversare le Alpi su una relazione che è fondamentale. Ma grazie al Gottardo anche per i passeggeri ci sarà presto un'opportunità in più. Abbiamo raggiunto un accordo tra le ferrovie italiane, le ferrovie svizzere, SBB e le ferrovie tedesche, un accordo trinazionale per realizzare dal 2017 un treno Milano-Francoforte. È una cosa molto importante perché il problema che oggi hanno i sistemi ferroviari in Europa contro per esempio gli autobus a lunga percorrenza è il fatto che gli autobus attraversano le frontiere senza problemi di sistemi di segnalamento, senza problemi di regolamenti, senza problemi di interoperabilità, mentre noi abbiamo ancora diversi problemi. E quindi il fatto che tre nazioni così importanti come relazione nord-sud si mettano d'accordo per realizzare dei treni comuni è un segnale molto importante. Per Doris Leuthard, consigliere federale dei trasporti e delle comunicazioni della Confederazione Elvetica, la determinazione, la puntigliosità e alla fine la puntualità dimostrate dalla Svizzera nella costruzione della galleria di base del Gottardo valgono come stimolo per tutti gli altri paesi, uno sprone a non fermarsi più. Puntuali come sempre. Io penso nel settore del trasporto la collaborazione fra i paesi è molto molto ammigliorato, perché tutti vedono costruire e investire in infrastruttura non si può fare senza il vicino, non si può fare da sola, abbiamo sempre la coordinazione, l'interoperabilità che deve funzionare. Allora noi pensiamo questo progetto mostra che funziona nel settore di trasporto. Una grande festa, un capolavoro. Sì, penso il popolo svizzero può essere veramente fiero di questo, di questa opera, orgoglioso, ma in un'attitudine è fatto dei lavoratori, è fatto del popolo che ha dato il sì per il finanziamento e una cooperazione con l'Italia, la Germania e tutti i paesi del corridoio. E c'è già chi ha raccolto la sfida e tra 10 anni la galleria di base del Gottardo potrebbe già non essere più il tunnel ferroviario più lungo del mondo. A nord-est sta infatti prendendo forma un'altra galleria, un altro capolavoro dell'ingegneria, il tunnel di base del Brennero, da mesi valico al centro di altre attenzioni e molte paure. Qui l'Italia gioca la sua parte in prima linea insieme all'Austria. Se tutto filerà liscio, la galleria del Brennero sarà pronta appunto tra 10 anni e sarà lunga 64 chilometri, 7 in più rispetto al Gottardo. Raffaele Zurlo è l'ingegnere del gruppo Ferrovie che nella società mista italo-austriaca BBT ricopre l'incarico di amministratore. Anche lui era al Gottardo, pronto a raccogliere il testimone. Tutti questi progetti di cui parliamo, Brennero, Valico dei Giovi e tanti altri, sono cofinanziati dall'Unione Europea, condizione imprescindibile perché un progetto possa essere cofinanziato dall'Unione Europea e che sia coerente con le norme europee sull'interoperabilità. Quindi necessariamente i nostri progetti sono assolutamente compatibili con queste norme e consentiranno, una volta realizzati, di poter veder transitare treni provenienti da tutta Europa. 10 anni e ce la facciamo con il Brennero? Noi ci contiamo, io sono fiducioso che realmente nel 2026 si possa mettere in opera questa importante infrastruttura. Ad oggi lo stato di avanzamento che abbiamo consuntivato e le previsioni che abbiamo, che di anno in anno aggiorniamo, tenendo conto di quanto già consuntiviamo, ci portano a confermare questa data nella quale io credo fermamente. Nel frattempo la Svizzera e gli svizzeri salutano la propria efficienza e i treni che sfrecciano dalla galleria del Gottardo, incuneandosi nelle valli dove anche le imprese più ambiziose rispettano i tempi. Meccanismi ed ingranaggi perfetti a cadenzare la volontà, l'ambizione, l'organizzazione. E adesso tocca a noi. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.